Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buonasera, sindaco. Buonasera. Dottore, un duro interrogatorio. Ma no, è stato un interrogatorio molto, molto tranquillo. Ho risposto a tutte le domande e ho chiarito la mia posizione. Lei sapeva di questa polizza assicurativa di cura beneficiaria? No, assolutamente no. L'ho appreso questa sera. Sono sconvolta. Perché crede che Romeo abbia organizzato una cosa del genere? Non ho idea. Poi ci sono le indagini in corso. Non posso assolutamente parlarne. Allora, caro Oscar, Virginia Raggi, sindaco di Roma, 8 ore. Però è uscita tranquilla, serena. Vedi con che... è un professionista della legge, lei, però. Io dopo 8 ore di interrogatorio uscirei a brandelli. Comunque a brandelli, ha detto. Offrirei brandelli di me, no? Ma nel senso, invece vedi composta, tranquilla. Ma non sono mica tutti come Davigo, sai? Non è che ti fanno con le tenaglie infuocate. A volte ti ricevo direttamente col mandato in bianco firmato e ti dicono rifletti un po'. Mannaggia. Virginia Raggi che dice tutto a posto, tutto sotto controllo, non no, sapevo tutto nulla. Tutto a posto non lo dice. Dice che è sconvolta. Dai. Sconvolta per la polizza. Ma della polizza stiamo parlando. La polizza. Questa novità della polizza. Sì. E naturalmente le ipotesi, come sai, sui giornali sono tante. Le ipotesi possono anche contemplare l'idea che davvero non ne sapesse nulla. Però la natura di Romeo, funzionario al Comune di Roma da anni, diventato militante dei 5 Stelle, che poi conosce Marra ai tempi di sindaco Marino e prima di Alemano, poi lo presenta alla quella che sarà candidata sindaco e sindaco Raggi, con la quale passa da 30 rotti mila euro di reddito a 120 mila, poi a novembre scende a 90 mila, insomma una grande ascesa. E perché allora gennaio del 2016 apprendiamo dagli inquirenti cambia il beneficiario di questa polizza, ma ci sono anche altre polizze che lui ha acceso, polizze compatibili con i suoi redditi, ma perché c'erano rapporti personali oppure perché era un collettore di denari? C'è scritto da diverse parti, c'è scritto nel pezzo di Repubblica. È ovvio che uno, avendo visto il sistema di mafia capitale, come aveva penetrato i partiti prima, può pensare anche questo. Dice: no, che c'entra? Perché trasferimento di denaro? Una polizza con un contraente e un beneficiario diverso è un trasferimento di denaro. Per questo, se un contraente intitola qualcuno come beneficiario una polizza, il beneficiario, secondo le norme vigenti, diventa il titolare effettivo della polizza e va identificato con un documento. Se io faccio un'assicurazione sulla vita e ti nomino beneficiario, devo dare un tuo documento, il tuo codice fiscale. Se tu non lo sai, e io me lo sono procurato, è un reato, perché stiamo violando una precisa norma antiriciclaggio. L'intermediario presso cui lo faccio deve comunicare all'autorità antiriciclaggio che tu sei un beneficiario diverso, certo, perché appunto è un trasferimento di denaro. Tutte queste domande dovranno avere delle risposte e vedremo. Al momento è la famosa polizza a sua insaputa. Cioè, questa è la no, non ha detto questa non ha detto questa dicitura, ma dicendo non, però ne sapevo, ha detto, nulla, non ne sapevo nulla, quindi a sua insaputa. Però abbiamo saltato i santi qui, Beh, no. Come avete capito, parleremo di questo, anzi diamo il numero di telefono 800 24 00 24, il caso Raggi, cosa ne pensate, cosa dovrebbe avvenire ora. Vabbè, forse anche come reagirebbero i 5 Stelle se capitasse a un sindaco di altro partito. Ma chiamava anche i militanti proprio del 5 Stelle, esatto, che ci ascoltano, esatto. Venite a dirci, siete imbarazzati oppure no, dite, insomma, è un'esagerazione, sono i complotti, ecco. Un'invenzione. Sono stati ingenui e siete, perché ci sono anche visto qualche parlamentare 5 Stelle a cui viene attribuita, Romano, che ha sempre avuto un'idea diversa rispetto a Raggi eccetera, a cui viene attribuita la battuta, ci hanno, per così dire, penetrati, presi dal dentro il sistema, no, di una nostra capitale, voglio dire. Però oh, i santi. Allora, i santi. E oggi poi è un giorno particolare, perché tu dirai, no, il 3 febbraio si sa, è San Biagio, il santo della benedizione. Ieri no, avevi detto che ieri dovevi spiegare una cosa sulla candelora. Ti devo spiegare sulla candelora perché, no, perché oggi San Biagio è un santo armeno, però poi le spoglie vengono portate in Italia nell'VIII secolo, a Maratea, si fermano a Maratea per via della tempesta, e quindi San Biagio diventa un santo di grande popolarità in Italia. E per via della candelora di ieri, perché la candelora è la processione della luce, della presentazione al tempio, si usano ancora le candele di ieri per la benedizione della gola X, che, perché San Biagio sai che era la benedizione della gola, il santo che protegge la gola perché c'è una disca in bocca di un bambino e lui lo guarisce. Il problema è che succede una cosa, questo fatto di San Biagio il 3 febbraio dà molto fastidio, sai perché? A chi? Perché oggi in realtà è Sant'Oscar. Sto fatto che tutti si ricordano solo di San Biagio. Oggi è Sant'Ansgario, è la forma latineggiante di Sant'Oscar, signori, chi l'avrebbe mai detto? Vescovo evangelizzatore dei danesi e degli svedesi. Incredibile. È il giorno invece... in cui Margherita ti deve fare un regalo, l'unico giorno, perché il resto No, dice che ha letto Telefisco, se dopo l'estinazione di Measca gli è passata la voglia. Cioè, mia moglie non fa. Però oggi è Sant'Oscar, ragazzi. Sant'Oscar. Figurati, le reliquie sono ad Amburgo. Io sono andato anche a calpestare al posto dove sono le reliquie. Perché mi sembra... Amburgo, tra l'altro, è una bellissima città. Bellissima città. Che c'entra? Assolutamente. Che calpestarle poi? No, calpestarle perché no, c'è la lapidina. Toccarle. È l'unico modo. Non potevo stendermi a terra. Mi arrestavano alla Domskirche di Amburgo, dove ci sono le sue. Perché lui provò a evangelizzare i danesi e svedesi. Non ebbe molto successo. Ecco. Anche lui ebbe i suoi incidenti. Comunque. Sì, ha fatto santo. Un ripiego l'ha avuto nella vita. Ecco, comunque, come sai, il 3 febbraio Sant'Ansgarius, che vuol dire la lancia di Dio in tedesco. Oh, Oscar, la lancia. Oggi compie gli anni. Oh, sai chi compie gli anni? No. E tu lo dovresti sapere. Alessandra Tedesco. No, perché hai fatto un intervento. Alvaro Vitali compie gli anni oggi. No, Alvaro Vitali compie gli anni. Per la verità, ma non lo sapevo. E invece fa gli anni Alvaro Vitali. Ma porcaccia miseria, Pierino. È nato nel 50 e tu gli hai fatto una bellissima intervista. No, vabbè. No. Allora, vabbè. Pensa che è anche il giorno in cui è nato, non voglio far battute, il PDS, perché si chiudeva il PC nel 1991, oltre a nascere Alvaro Vitali, ma un po' prima, quindi vedi come si toccano nel filo però dell'ironia e della comicità le cose. Comunque dai, 800 24 00 24, parliamo del caso Raggi. Tra l'altro devo dire, oggi avremo anche l'assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune di Roma, Linda Medeo, che è un tecnico, questa è un'altra, però, è una vicenda. Approfittiamo certo. Anche parliamo anche della vicenda di Vasto, una vicenda che ha molto sconvolto, e sui social ci sono molte persone che ne parlano ancora. Lì a Vasto, lo sapete, ci sono di fatto tre famiglie distrutte. La famiglia di Roberta Smargiassi, che è morta per seguito a un incidente stradale, investita da Italo Delisa, questo 22enne che poi a sua volta è stato ucciso dal marito di Roberta Smargiassi, perché non si sentiva soddisfatto, sentiva che sua moglie non aveva giustizia. Dice l'avvocato, adesso questo naturalmente massima della considerazione, io non voglio entrare nel dar giudizio, mi colpisce che l'avvocato di chi poi adesso ha ucciso, no, l'autore, responsabile dell'incidente, come lei dice, non aveva mai chiesto scusa. Sì. Che un avvocato però dica non aveva mai chiesto scusa, quindi il mio assistito spara, lo ammazza, mi sembra. C'è la polemica anche sui tempi della giustizia. Con noi c'è il procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, che ringraziamo. Buongiorno procuratore. Buongiorno, grazie di essere qui. Allora, c'è la polemica, anche l'arcivescovo ha detto con una magistratura più veloce si poteva evitare tutto questo. Lei ha già spiegato pubblicamente del perché, diciamo, diritto alla mano, non fosse in carcere Italo Delisa, non poteva stare in carcere? No, guardi, premesso che l'arresto è atto della polizia giudiziaria, ma io ho condiviso il fatto che non abbiano proceduto all'arresto perché si trattava di un'ipotesi di arresto facoltativo, e tra l'altro il ragazzo non aveva assunto sostanze alcoliche, non aveva assunto sostanze stupefacenti, era un incensurato e si è fermato nell'immediatezza dei fatti. Quindi l'idea di dover intervenire con una custodia cautelare, che sono sicuro il GIP non avrebbe dato. quindi ci fosse stato anche un fermo, poi guardi, l'avremmo tenuto un giorno dentro, il giorno dopo sentire le polemiche, questa volta non contro il pubblico ministero ma contro il giudice, la solita favola italiana, ah vedete loro li arrestano e poi vengono certo, procuratore, qui però ci sono tre famiglie devastate. Ho detto nell'immediato che si tratta di una tragedia nella tragedia, però non può passare l'idea di una giustizia fai da te, perché altrimenti ci mettiamo tutti i cinturoni con le pistole, andiamo in giro e ci facciamo giustizia da noi stessi. Perché lei può essere... No, certo, lei vive sul territorio, avrà colto che purtroppo, lo dico anch'io, sono d'accordo con lei, ma c'è un po' questa sensazione di dire molti o non so quanti che dicono ha fatto bene. Guardi, la stupidità che sto leggendo in rete in questi giorni è davvero sconvolgente. Cioè, l'idea che qualcuno possa trasformare una persona che magari avrà avuto i suoi problemi, la perdita di una moglie, progetti che saltano, chance, aspettative di vita, magari fatte in un certo modo che poi all'improvviso, in una frazione di secondo, ti cambia lo scenario della tua vita. Comprensibile tutto quello che vogliamo, ma da lì a dire bravo, hai fatto bene perché la giustizia è lenta, hai fatto bene a farti giustizia da te. Io vorrei chiarire una cosa, anche in risposta, io l'ho fatto un comunicato stampa perché qualcuno è uscito fuori dal seminario. Le spiego subito, l'incidente si è verificato il 1 luglio del 2016, sì. È stato iscritto il procedimento, abbiamo fatto l'esame tossico, abbiamo conferito una consulenza per ricostruire la dinamica del sinistro, abbiamo acquisito i filmati delle telecamere della città di Vasto. Il 4 ottobre del 2016 è stata depositata la relazione da parte del nostro consulente. Il 12 ottobre del 2016 abbiamo formalizzato l'avviso di conclusione delle indagini e poi immediatamente dopo, ci sono i 20 giorni di tempo che la difesa ha a disposizione per fare delle istanze, abbiamo firmato la richiesta di rinvio a giudizio. 110 giorni. Quindi lei dice i tempi non sono tempi. Per la giustizia io italiana. Io sfido, dottor Giannini, a trovare qualcuno che possa dire che i tempi in questo caso della giustizia siano stati lenti. Questa è una giustizia che si è messa sulla corsia di sorpasso ed ha garantito il rispetto delle regole a chi l'aveva violato. Sì, io personalmente un'ultima domanda, vorrei capire se questa persona ora che deve rispondere di omicidio volontario, immagino, questa è l'accusa, se in qualche modo il diritto, il codice penale prevede un qualche tipo di attenuante per la situazione che ha generato tutto questo, sì o no? Non ci sono elementi allo stato degli atti per poter dire una cosa del genere. Chiaro che poi questa è materia della difesa, che sì, chiaro, sono chiaro. Sicuro che troveranno modo per cercare di attenuare nei limiti del possibile, nel rispetto delle regole soprattutto, il modo per far uscire il loro cliente da una vicenda così complessa, però da un punto di vista squisitamente tecnico possano essere o meglio che questa situazione, l'antefatto in qualche modo possa in qualche modo attenuare. Va bene, procuratore, noi la ringraziamo ovviamente, Giampiero Di Florio è il procuratore capo di Vasto in provincia di Chieti, qui caro Oscar. A me tocca aggiungere solo mia convinzione personale che anche noi dell'informazione abbiamo di che riflettere, perché poi noi non è che non ci mettiamo la zampa nostra nel montare le reazioni, questo tipo di opinioni diffuse nell'opinione pubblica, no? Infatti se vedi oggi Francesco Merlo su Repubblica, esatto. Mattia Feltri sulla Stampa proprio richiamano a un certo tipo di, quando avvengono questi fatti, il cavalcare il populismo, perché chiama, no? È noto che siccome i giornali sono a corto da sempre su un fatto di cronaca come muore la mamma, la moglie eccetera, il giovane, insomma, si sparano i titoli eccetera eccetera, dopodiché inizia la coda delle reazioni che alimentano l'idea che la giustizia è troppo molla, è troppo lasca, non è abbastanza esemplare, non lo fa marcire in galera da subito, anche se non ricorrono i tre unici motivi per cui bisogna fare il carcere preventivo. politico ce le dimentichiamo tutti, e in quel caso ecco che pensa cosa succede. Succede che si monta dentro la psicologia di una persona il cui dolore non può che essere al centro di ogni cordoglio, però a quel punto si prende una pistola, ecco. Tra l'altro ci ha detto 100 giorni con l'estate di mezzo, quindi insomma immagino che per qualche giorno in agosto, da luglio a ottobre, in 100 giorni si era di fatto instradata bene l'inchiesta con l'accusa. In ogni caso poi ognuno qua ha il suo... Certo che anche gli eroi da tastiera, Oscar, no? Sui social dicono queste cose. Però questo è un meccanismo... Il meccanismo... della giustizia esemplare è un meccanismo che in realtà attraversa trasversalmente dagli operatori della giustizia alle vittime, i familiari, gli operatori dell'informazione. Adesso ti può sembrare che c'entri poco, ma l'altra sera, quando Davigo, il presidente dell'ANM, era ospite porta a porta e ha riproposto la sua tesi secondo la quale l'indagato è praticamente quasi sempre colpevole e ci sono troppi colpevoli che vengono assolti, non vengono condannati abbastanza, e quando invece vengono sollevati non è affatto detto che non siano dall'accusa, non è affatto detto che non siano colpevoli comunque. Questa è l'altra faccia di questa stessa cosa. Però. Sì. Vabbè, caro Oscar, qui mi sa che chiamano tutti per la vicenda Raggi Roma. Li capisco. Luigi ci chiama da Ancona, buongiorno Luigi. Molto velocemente, io sono un collega giornalista che nell'ultimo periodo per crediti professionali ha fatto 3 corsi online per quanto riguarda la deontologia professionale. Noi ci dobbiamo fare le domande, la domanda che mi sorge spontanea, e sono veramente giornalista non di parte, ma come mai nessuno ancora ha intervistato l'attore di tutto questo? Questa è la domanda che ho da ieri sera. L'attore di tutto questo in che senso? Cioè colui Salvatore che ha fatto la polizza. Romeo, me è intervistato, guarda, su Repubblica c'è una telefonata. Romeo, c'è questa cosa delle polizze. Ma quali polizze? E poi dalle 18 il telefonino suona vuoto. Non credo che sia una persona in questo momento che si faccia intervistare molto facilmente. Quindi ci hanno provato a Repubblica, ci avranno provato un po' tutti. Beh sì, Luigi, sarebbe bello sentire la versione di Salvatore Romeo. Se volesse, noi a 24 mattino siamo qui. Caro Salvatore Romeo, se ci ascolta, noi siamo molto felici, caro Oscar, immagino di ospitarlo e sentire cosa ha da dirci. Però non sarà facile. No. Sai che oggi è il giorno in cui nel 1919 nasceva l'Alfa Romeo per Nicola Romeo. Pensa che Nicola Romeo, grande manager, imprenditore Oscar dell'auto. Oscar è così, trova sempre questi fili. Storia a volte non capisce. Alfa Romeo, Nicola Romeo, no, Salvatore Romeo. Salvatore Romeo. Soldi strani. Antonio da Mestre, buongiorno. Però scusa, posso dire buongiorno. Sì, sì, certo. Ipotizziamo che sia come dici tu. C'era una storia, erano fidanzati. No, come dico io? No, prima hai detto alcuni magari. Alcuni raccontano. Esatto, sì. Dicono. Figurati, non ti voglio attribuire. Dico solo che raccogliamo tra diverse poi. Sarebbe la cosa più ovvia da dire, no? Lo dicono, non c'è niente di strano sotto. Ma perché, buonanotte. Perché si dice questo? Perché Romeo ha fatto una polizza anche all'ex fidanzata da 10.000 euro. Tra l'altro, ex fidanzata che neanche, dice: ma come io 10.000 euro? Neanche e solo a lei, 30. Però, perché leggo che l'ha fatta anche a un altro. Un amico. Ecco, poi un altro che poi è finito per candarsi con Marchini. Cioè, sono un po' troppi per dire che erano tutti fidanzati, no? O no? Sì, poi soprattutto. Vabbè, Antonio da Mestre, sentiamo. Buongiorno. Dica. Innanzitutto il signor Giannino ha messo una grossa cimice in un orecchio. Per fare una polizza intervengono 3 soggetti, il contraente, l'assicurato e il beneficiario. Chi firma il contratto di polizza è solo il contraente e l'assicurato. Bellissimo. Io l'assicurato in qualità di contraente posso cambiarlo in qualsiasi momento. Sì. A condizione che l'assicurato non sappia niente, quindi non sappia della sottoscrizione. No, questa cosa, scusi, come a condizione che non lo sappia? Perché allora, il beneficiario, io posso indicare nella polizza, facciamo finta che io sia contraente e assicurato. Sì. Posso mettere come beneficiario l'amante, un figlio, e nessuno sa niente, perché non sono obbligato a dire: caro Tony, sei il beneficiario della polizza. Perché se Tony mi fa un dispetto e non mi va più di tenerlo come beneficiario, lo cambio, lo sostituisco. Perché dunque, secondo lei lo può indicare senza dare copia del documento del codice fiscale? No, invece no. No, sul serio. Non so, io sono andato a rivedere mia nonna, d'accordo. No, no, il beneficiario è l'unico che può essere, che può non essere a conoscenza della polizza. E vabbè, insomma, ci dà... Che mestiere fa? Due che firmano sono contraente ed assicurato. Che mestiere fa lei? Il consulente finanziario. Ma allora scusi, le norme sull'antiriciclaggio che dicono che va registrato e ci vuole la comunicazione invece? Allora, la comunicazione riguarda solo il contraente perché è quello che tira fuori i soldi. Perché le polizze vita no, sono guardi che riguarda anche il beneficiario, però adesso non ho voglia di aprire una questione tecnica. Contraente è assicurato, assicurato è la testa su cui viene fatta la polizza, il contraente è colui che tira fuori denaro. Quindi il contraente, quello che tira fuori denaro, quello è soggetto... Antonio, si vada a rivedere le norme, perché vedrà che siccome gli obblighi di antiriciclaggio sono perché è un trasferimento di mezzi di pagamento a favore del beneficiario, riguardano anche l'identità del beneficiario. Se li vada a vedere, perché sono assolutamente certo di questo. Comunque, grazie Antonio. Grazie per questa precisazione. Dai, diamo un attimo di pubblicità, perché le telefonate continuano e poi avremo anche l'assessore dei trasporti di Roma... È un'altra grana quella dei trasporti di Roma. Sì, però almeno quella è una grana ritata, una grana... grande come una casa, bisogna tentare di fare il possibile per risolverla. Insomma, si sa qual è. Ecco. Esatto. Vediamo, dai, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 8.42 minuti, anzi quasi 8.43 minuti. Eccoci qua. Allora, ci chiama Gaudenzio da Roma. Sì, Gaudenzio, sì. Ci siamo? Sì, sì, pronto. Bene, dica. Niente, io volevo, prima di tutto come simpatizzante del Movimento 5 Stelle, gradirei una sola cosa, anche da tutti i miei amici, quello di fare la massima chiarezza su questa situazione, perché abbiamo bisogno di notizie. Noi abbiamo bisogno di notizie per capire. Detto questo, però, è anche vero che questa situazione è molto molto strana. È strana perché, prima di tutto le dico, io sono testimone oculare di un'assicurazione vi contro la mia morte fatta ai miei figli, e io non ho avuto bisogno assolutamente né delle firme né dei documenti dei miei figli, perché la posta dove io l'ho fatta non me l'ha chiesto, ma non mi ricordo se il nome, è certo che mi ha chiesto il nome, cognome, perché il beneficiario gli ha chiesto il codice fiscale? Certo, perché io non c'ho il codice fiscale di mio no, figlio. No, ecco, sì, c'è. Ma il codice fiscale lo sanno... No, certo, uno deve dare il codice fiscale, però effettivamente il codice fiscale, se uno sa la data e il luogo di nascita, si risale. Qual è il problema? È pubblico il codice fiscale. Certo, quindi lei dice uno potrebbe averlo fatto col codice fiscale. Quindi non è giusto quello che dice Oscar, che il beneficiario deve sapere. Non deve sapere. I miei figli ancora oggi a telefonata in corso non sanno che hanno una polizza a loro favore in caso di mia morte. Speriamo che non riconoscano la sua voce. Scusi un secondo, su questo bisogna essere... Scusi, io voglio essere preciso perché vedo che c'è tanta gente che è già partita a cosa. Ripeto, due punti. Siccome il caso di un contraente che indica un beneficiario diverso, a maggior ragione se non sono vincoli di parentela, e perdonatemi perché le norme prevedono anche questo, a maggior ragione se è un politico. Allora, siccome si tratta di un trasferimento di sistemi di mezzi di pagamento, in quel caso, quando si riscuote, allora, se all'atto dell'indicazione di un beneficiario diverso si usano gli estremi, e dipende dal tipo di polizza e a seconda del rigore dell'intermediario nell'applicare le norme dell'antiriciclaggio, che sono rigorose, il tipo di documento che si usa per identificarlo è il codice fiscale, avviene a insaputa del beneficiario, se poi avviene il trasferimento è reato. 1, 2, c'è l'obbligo di segnalazione da parte dell'intermediario, se non c'è la segnalazione è reato. Quindi io questo mi rimetto a dire, ci sono delle norme precise sull'antiriciclaggio. Poi ripeto, se Romeo fa così e non lo dice, può avvenire nel caso in cui ci fosse il pagamento, diventa un reato. E questo è le cose stanno così, non è che io sto accusando nessuno, ricordo solo come stanno le cose. Comunque l'ascoltatore dice voglio chiarezza, ecco, sicuramente qualcosa da chiarire. C'è stato l'interrogatorio ieri, 8 ore, finita a mezzanotte, non sappiamo nulla, i dettagli sono oggi sui giornali, chiaramente questa vicenda e poi dire, conta anche il tipo di polizza, ecco, perché ci sono i tipi di polizza in cui le norme sono diverse, ecco, quindi bisogna sapere anche quello, bisogna sapere anche chi è l'intermediario. Sentiamo Carlo da Milano. Carlo da Milano. Sì. Carlo. Sì, buongiorno, complimenti, vi sento sempre tutte le mattine. Sì. Vi faccio sempre i complimenti. Io volevo confermare dell'ascoltatore di prima, perché in effetti anch'io ho fatto così. Non mi hanno chiesto nessun documento. Prima al fratello e poi alle figlie, mi hanno chiesto soltanto le generalità e punto e basta. Quindi loro non sanno nulla. Chiuso il discorso. Questo l'ho fatto sia una polizza in banca che anche in un'assicurazione. Quindi la norma è questa. Se poi lei dice che non è le, allora chiediamoci se le assicurazioni agiscono in modo per far sì che queste cose succedano, e poi dopo non vorrei andare avanti perché pensar male peccato ma si indovina sempre, ecco. Vi è più se il beneficiario non è un membro della famiglia, dello stato di famiglia, ma comunque grazie anche alla sua testimonianza. Allora, in questo contesto politico in cui sui giornali c'è la vicenda Virginia Raggi, noi abbiamo ospite un assessore del Comune di Roma, è un assessore tecnico, è l'assessore dei trasporti e mobilità, quindi un altro settore che per i cittadini romani è tenuto in molta considerazione. Si tratta di Linda Meleo. Assessore, buongiorno e grazie di essere, buongiorno, essere qui. Tutti. Ovviamente, come puoi immaginare, insomma, voi fate il vostro lavoro, lei fa il suo lavoro, però li leggerà i giornali, no? Cioè, da una parte c'è il lavoro tecnico, dall'altra c'è questo rischio di bufera politica che un po' incombe sul Comune di Roma. Come lo vive lei? Guardi, io sono dell'opinione che queste bufere presunte, quantomeno da luglio che vanno avanti, però è da luglio che tutta la giunta sta lavorando incessantemente su tanti temi. Io vi posso parlare veramente della mia esperienza. Il lavoro fatto in questi 6 mesi è stato veramente enorme, perché le garantisco che la situazione in cui ho trovato Roma, gli uffici, la parte della mobilità era drammatica. Inclusa evidentemente anche la nostra azienda del trasporto pubblico romano, che è appunto l'ATAC. Sì. Quindi dice, si lavora nonostante queste vicende giudiziarie, si lavora. Questo è il compito di questa giunta e di questa consigliatura. Sono stati eletti dalla città per dei cambiamenti, e con noi questi cambiamenti li stiamo portando col nostro lavoro. Il lavoro va avanti, insomma, in tutta velocità. Va avanti in tutta velocità. Va bene. Senta, io le faccio una domanda, metto insieme tre cose, ma perché ovviamente non devo spiegare a chi ci ascolta e a lei la vastità del problema. Mi riferisco solo ad ATAC, no? ATAC è l'azienda, l'abbiamo detto tante volte, che Mediobanca ci consegna come la grande municipalizzata del trasporto, quasi la più grande d'Europa, ma insieme la più scassata dal punto di vista della finanza, del debito e del deficit accumulato. Stiamo parlando di un debito che era 1,5 miliardi, adesso forse 1,3 miliardi, però perderà anche quest'anno, anche se i conti li sapremo tra qualche mese ancora, il bilancio 2016, perderà ancora molto più di quanto non si immaginasse, perché il piano diceva che si tornava al pareggio, invece la stima è ancora, questo lei non ci potrà dire nulla, ma stima ancora di perdere intorno ai 90-100 milioni. Allora, prima domanda, la legge Madia sulle partecipate diceva dopo potrei tre anni. Potrei smentirla su questo, però vorrei, poi sarà l'azienda a farlo. Sarà l'azienda a farlo, vedremo i conti quando ci saranno. No, però voglio dire, esatto. La Madia, il decreto Madia sulle partecipate diceva dopo 3 anni di perdite, insomma, bisogna intervenire e si può chiedere al governo di intervenire, anzi diceva bisognerebbe fare così. Voi avete preso un'altra strada dicendo no, perché avete preso un'altra strada, visto che il debito accumulato è di quelle proporzioni, il deficit continua a essere di queste proporzioni, la necessità di investimenti, lei ci dirà il piano, avete reperito delle risorse per investire, però ereditata è una condizione che avrebbe bisogno tra ripiano del debito, il piano straordinario del debito, recupero delle PERT e investimenti, di una quantità di risorse finanziarie di cui il bilancio del Comune di Roma non è a disposizione. Potrete fare il possibile, ma così non se ne esce. Perché allora non seguire la strada del decreto Madia? Le spiego molto brevemente la situazione di Hack. Indubbiamente quando io ho visto la prima volta con attenzione i conti, è chiaro che l'azienda da un lato ha un problema industriale perché ha un debito manutentivo importante sia sul parco di superficie sia sul materiale rotabile, ma un debito che non nasce né oggi né ieri. Questo è un debito che nasce grosso modo, guardando un po' i conti, dal 2004. Quindi capiamo che questo problema è un problema che si è radicato nel corso del tempo, ripeto, in termini industriali. E poi ovviamente abbiamo anche un problema di equilibrio economico finanziario, e quello che ho potuto rilevare c'è stato soprattutto un problema di tipo finanziario per quanto riguarda il discorso dei flussi di cassa. Quindi, come sappiamo tutti, servono ogni mese per far fronte, per non errare i debiti verso i fornitori e tutti gli altri debiti. Ora, qual è il punto della questione? È che evidentemente queste due attività vanno di pari passo. Se quindi l'azienda è stata privata di fatto di una pianificazione strategica nel corso degli anni, è inevitabile che poi si arrivi a questa situazione. No, il discorso quindi, è che l'azienda ha anche sprecato un pacco di quattrini, perché è un'azienda che ha quattro volte la percentuale degli assenteisti del privato. La percentuale degli assenteisti è comunque di inedoni, è sicuramente elevata, ma non stiamo parlando di cifre enormi. Però ciò come detto, non stiamo parlando di cifre enormi? Le ha visti gli ultimi dati del trimestre? Io i dati li ho visti molto bene, li conosco molto bene evidentemente. Quello che volevo dirle è che questa... Scusi, l'assenteismo a Roma è andata che è il 12,7%, a Napoli è il 6,18%, a Milano l'8,26%. Poi, come io dico sempre, vanno sempre anche rapportati alla stagionalità. Sono usciti i dati dell'ultimo trimestre 2016 che necessariamente... per discorso di stagionalità, come lei forse dovrebbe sapere, occupandosi anche di economia, non possono essere comparati al trimestre precedente in cui c'era di mezzo agosto le ferie estive. Quindi è normale che nell'ultimo trimestre di un anno possa avere i dati sull'assenteismo in cui inizia l'inverno, si sono presumibilmente le malattie, sia più alto rispetto a quello del trimestre precedente. No, quindi io le ho fatto i dati comparati alle tre città, però non ho voglia di polemizzare su questo. Altrimenti vuol dire che lei copre l'assenteismo all'altra, ma io non lo voglio pensare, non è così. Le ho fatto i dati di tre città e delle aziende pubbliche. I dati di tre città e delle aziende pubbliche. Io non copro assolutamente. Quindi la stagionalità, dicendo, però, assessore, non c'entra niente. I dati di tre città e tre aziende. Io le sto commentando i dati che l'ho detto io, però mi fermo qua. Però andiamo avanti, perché su questo volevo dirlo, che indubbiamente al di là di questi problemi di debiti manutentivi e di questo problema di deficit o comunque di disallineamento economico finanziario, indubbiamente negli anni ATAC è stato anche un territorio, come ben sappiamo, in cui c'è stato un evidente cassone di tortasole del ciclo economico politico. Parliamoci molto chiaro. Appunto. È stato un bacino elettorale, esatto. È stata un'azienda in cui è stata utilizzata come, diciamo, ammortizzatore sociale, quindi questo lo sappiamo tutti. Però le garantisco che questo tipo di attività, con questa aggiunta, ma anche sulla scia di quanto prevede la disciplina nazionale, non ci sarà più. Questo sì. Vorrei che fosse sottolineato. Però, 100 assessore, volte. Perché abbiamo 20 secondi. È vero che lei vuole combattere le macchine in doppia fila a Roma? Cioè, basta questo? E come? Questo. Multe. Questo sia con misure attraverso il controllo sul territorio da parte della polizia locale, ma anche attraverso poi delle misure strutturali, perché pensiamo anche che ad esempio la realizzazione di corsie preferenziali protette o altrimenti di nuove piste ciclabili possano restringere la carreggiata e quindi eliminare in maniera strutturale il problema della doppia fila. Vabbè, questa è una cosa che vedremo. Certo, è difficile, Oscar, pensare, insomma, che da una parte si lavori, ma com'è giusto che sia, insomma, gli assessori, la giunta vanno a continuare a lavorare, e dall'altra parte anche il sindaco, dall'altra parte incombe questa questione giudiziaria che adesso. E speriamo che venga chiarita al più presto, perché mancano i particolari per capirla e per giudicarla. Beh, insomma, questo è vero, ancora forse prematuro, ecco, magari nei prossimi giorni sapremo. Grazie davvero a tutti, ci dobbiamo fermare qui. Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione. E soprattutto buon Sant'Oscar. Sant'Oscar, ovviamente, e Peter Bescavè in regia. Ci troviamo lunedì.